Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, benvenuti all'appuntamento con Europa 24. Parliamo da alcuni numeri. La Commissione Europea ha adottato il Programma Operativo Nazionale per le Infrastrutture e le Reti per il periodo che dal 14 va al 2020. La dotazione di bilancio ammonta a 1,84 miliardi di euro, di cui il 75% circa proviene dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Il programma prevede investimenti in tre settori: le infrastrutture ferroviarie, portuali e di sistemi di trasporto intelligenti. Tra gli obiettivi, in particolare, incrementare l'uso delle ferrovie come mezzi di trasporto merci, passando dalle 12 tonnellate per 100 abitanti di oggi a 24 tonnellate, dunque un vero e proprio raddoppio. E ora parliamo invece di Disneyland Paris, o Paris. Dopo la notizia del lancio di un'indagine dell'antitrust europeo, la società nega di far pagare di più ai visitatori di alcuni paesi, ma sentiamo il servizio realizzato da Laura Bettini. A Disneyland Paris meglio andare da francesi che da tedeschi. I primi, un pacchetto premium, lo pagano 1.100 euro in meno dei secondi. La denuncia di alcune associazioni di consumatori, amplificata da un'inchiesta del Financial Times, ha messo in moto la Commissione europea. Abbiamo chiesto alle autorità francesi di indagare sul perché di queste disparità, dice la commissaria europea per il mercato unico Biankowska. Noi non capiamo che senso hanno, ma forse una giustificazione c'è e siamo pronti ad ascoltare. Applicare prezzi diversi in mercati diversi non è illegale, dice la commissaria, ma serve trasparenza e ai consumatori non deve essere preclusa la possibilità di accedere alle offerte di altri mercati, almeno non senza una valida giustificazione. Disneyland Paris si difende dal canto suo garantendo che la società pratica per tutti gli stessi prezzi e che le variazioni dipendono semmai da promozioni o periodi di vacanza dei diversi paesi. La discriminazione dei consumatori su base geografica è un tema di cui sempre più spesso l'Unione Europea si sta interessando. La Commissione ha in esame denunce contro gli hotel spagnoli, gli ski lift austriaci, i musei e i servizi di Venezia. Praticarla non è difficile. Basta un sito che riindirizza automaticamente su un altro sito o l'introduzione di restrizioni ricavate dall'indirizzo IP o dalla carta di credito. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E ora parliamo dell'MH17. L'MH17, lo ricorderete, è la sigla del volo abbattuto nel luglio dello scorso anno sui cieli dell'Ucraina, dell'Oriente Ucraina, anzi sui cieli di Donetsk. Bene, la Russia ha posto il veto in seno al Consiglio di Sicurezza per un approfondimento specifico nell'indagine appunto sull'abbattimento, e arriva pochi istanti fa la nota della Commissione UE e per voce naturalmente del vicepresidente responsabile agli esteri Federica Mogherini, dice è fondamentale che il lavoro degli investigatori prosegua affinché chi è coinvolto direttamente o indirettamente nella strage aerea del Boeing malese MH17 sia individuato. Così Maya Kocancic, una delle portavoce della Commissione UE, nell'esprimere rammarico per la mancata adozione a causa del veto della Russia di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza per la creazione di un tribunale internazionale sull'abbattimento di questo aereo. E ancora, prima pagina del Wall Street Journal e lungo pezzo sul Financial Times, la grande stampa internazionale, in particolare quella anglosassone, dedica grande attenzione alla visita dell'altro rappresentante per la politica estera UE, Federica Mogherini, in Iran. Tutto questo pochi giorni dopo il raggiungimento dell'accordo sul nucleare. Il giornale americano pubblica in prima pagina la foto della Mogherini, dice l'arrivo di Mogherini a Teheran apre strade nuove per l'Unione Europea. Il pezzo sottolinea come questa visita abbia rafforzato la cooperazione tra l'Europa e l'Iran anche per quanto riguarda il versante delicatissimo della lotta all'ISIS. E direi che con questo è tutto. Io vi saluto. Europa 24 torna in onda domani. Un saluto. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.